9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Come promesso, il nostro ascoltatore che abbiamo sentito ieri, Angelo da Bergamo, diventerà un tormentone di questa trasmissione, almeno in queste settimane di campagna elettorale, perché se la prende con tutti e tre i partiti, compreso il Movimento 5 Stelle. Trovate un accordo perché l'Italia sta morendo e io sono tra questi. Politica nel tunnel, oggi parliamo di quota rosa, ve l'ho detto, ci occuperemo di quota rosa nei consigli di amministrazione, non solo in generale di quota rosa. Posto che le quote rosa si sono già attuate da sole in Parlamento, in realtà potete votare sul nostro sito il sondaggio www.radio24.it. Al momento i contrari alle quote rosa sono il 69%, i favorevoli il 31% circa, o arrotondato da una parte per difetto, dall'altra per eccesso. Quindi andate sul nostro sito e votate. Chiudiamo le votazioni alla fine di questa trasmissione. Come sempre in apertura un punto politico, visto il nostro sottotitolo, la politica nel tunnel, la navigazione nella nebbia della quale parla il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, alla quale si aggiungono una serie di elementi, a partire dalla questione giustizia. Ieri, lo sapete, la condanna per la vicenda Unipol a Silvio Berlusconi, a breve la sentenza Ruby, l'inchiesta appena aperta a Napoli sulla base delle dichiarazioni di De Gregorio per la compravendita di senatori per far cadere Prodi. Berlusconi attacca i magistrati, parla di persecuzione e in sostanza si dice che voglia o un governo di larghe intese che faccia anche la riforma della giustizia, ma siamo nell'ambito dei retroscena, ma sembra che la linea sulla quale si stia assestando tutto il PDL in realtà è il voto a giugno. Altra questione, la questione Grillo. Attacca i lupi dei talk show televisivi, poi magari sul tema giornalisti Movimento 5 Stelle ci torneremo con una trasmissione apposta, perché gli attacchi sono durissimi e dato che non siamo corporativi ne vogliamo parlare a mente aperta. L'obiettivo dei conduttori, dice Grillo, è sbranare pubblicamente ogni simpatizzante o eletto del Movimento. Poi l'intervista al Time, nella quale va chiarito, non minaccia violenza, ma dice testualmente dovrebbero ringraziarci uno ad uno. Se noi falliamo, l'Italia sarà guidata dalla violenza nelle strade e vuole il 100% del Parlamento. Lato PD si registrano le plastiche divisioni che abbiamo rappresentato anche ieri nelle nostre trasmissioni politiche. Chi vuole il governissimo, chi dice Bersani ci provi, chi dice Bersani è destinato al fallimento, dobbiamo rinnovare. Nel frattempo però l'unica vera dichiarazione politica che abbia un senso nella giornata di ieri è quella di Mario Draghi alla fine, perché dice Draghi l'Italia proseguirà sulla strada delle riforme, perché la strada delle riforme continua come se ci fosse il pilota automatico. Altro grande tema, se vogliamo, quello della democrazia, che insomma torneremo a toccare, del nostro rapporto con l'Europa. Saluto intanto Anna Zattoni, che è direttore generale di Valore D. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Però prima di sentire lei, poi ospiteremo anche Lucia Quaglino, collaboratrice dell'Istituto Bruno Leoni, con il quale appunto parleremo di quote rosa, vi ricordo il nostro sondaggio. Noi abbiamo parlato di questo di quote rosa e non solo di questo, anche della sua attività di governo, dell'8 marzo in se stesso, con Elsa Fornero, ministro del lavoro. A chi già ci scrive su Twitter, vi ricordo che potete interagire con l'hashtag 9 in punto oppure scrivere direttamente a me se volete, Simone Spezia, c'è già chi ci scrive attaccando la Fornero o attaccando il ministro Fornero. Ora, va bene, ha fatto degli errori, va bene, vi potrà stare antipatica, però io non posso mancare di ricordare ogni volta che le riforme che portano il nome di Elsa Fornero sono state approvate da tutto il governo e da tutta la maggioranza che sosteneva l'esecutivo, anche da coloro che adesso se ne tirano fuori. Quindi vi starà antipatica, non saranno buone le riforme, e però che se dovete distribuire colpe, distribuitele equamente. Quindi partiamo dalle quote rosa, ma si parlerà anche del fatto che Elsa Fornero dice c'è stato del sessismo nei miei confronti, sono stata attaccata anche perché donna. Sentiamo. non ci sono regole generali. Le cose vanno sempre messe all'interno di uno scenario che le può giustificare in un modo oppure nell'altro. Voglio dire, se noi fossimo una società che sceglie sempre sulla base della meritocrazia, non avremmo bisogno di quote rosa, perché la capacità delle donne, l'intelligenza, la professionalità, la competenza non credo che abbiano una distribuzione molto diversa rispetto a quella degli uomini. Quindi vuol dire che noi dovremmo trovare, tanto più che grosso modo le performance scolastiche mostrano semmai una differenza a favore delle donne, delle ragazze, non certo dei ragazzi, e dovremmo vedere sostanzialmente una rappresentanza più o meno paritetica in tutti i posti di responsabilità. E invece vediamo che le donne alla base della scala gerarchica spesso sono sovrarappresentate, ma man mano che si sale il loro peso diminuisce. Questo è un chiaro indice che non c'è una prevalenza del merito nei criteri di scelta. E allora io dico che un paese dove il merito è particolarmente sacrificato merita le quote, che di per sé non sono uno strumento perfetto, anzi le quote possono anche avere, come sempre capita, non ci sono mai strumenti solo buoni o solo cattivi. Quindi noi l'abbiamo adottata in questo paese, io credo che sia stata una decisione saggia, come lei sa non è stata una decisione di questo governo per quanto riguarda le donne nei consigli di amministrazione delle società quotate, ma questo governo ha esteso questo alle società partecipate, come lei ricordava, e quindi questo dimostra che c'è stata una condivisione anche da appartenenti a forze politiche, ma nel nostro caso anche diciamo non appartenenti alle forze politiche, perché noi siamo un governo tecnico, e quindi vuol dire che era molto sentita. D'altronde tutti sanno che l'Italia sotto questo profilo è un paese arretrato, e in Europa ci sono paesi che stanno come noi, cioè abbastanza male, e magari hanno ancora più resistenza dell'Italia a introdurre le quote, e ci sono paesi dove invece le scelte sono più ispirate al merito e dove quindi non c'è la predominanza maschile nelle posizioni di vertice, e queste non ne hanno bisogno. Quindi io direi che di nuovo è una questione pragmatica, però io ripeto, nei paesi dove si mostra una resistenza particolare, credo che lo strumento vada adottato, per l'appunto con pragmatismo. Verrei, Ministro, a tema più generale, che è quello dell'occupazione femminile. Ho qua sotto mano i dati dell'Istat su occupati e disoccupati, anno 2012, quindi quelli complessivi dell'anno, dal quale come sempre emerge un quadro che colpisce moltissimo, soprattutto dal lato delle donne. Se si pensa, parliamo sempre della disoccupazione, dell'occupazione giovanile, tra i 15 e i 24 anni il tasso di occupazione femminile al sud è al 9,9%, è un livello bassissimo. Il tasso di occupazione al sud per tutte le classi di età tra le donne è al 31,6%. Andiamo un po' meglio naturalmente nelle regioni del centro e del nord, ma siamo ampiamente sotto quella che è l'occupazione maschile. Ora, da questo lato qualcosa avete tentato di fare anche nell'ultimo scorcio della legislatura, ne abbiamo parlato anche dai microfoni di Radio 24, l'abbiamo ospitata proprio su questo, c'è stato uno stanziamento da parte del Ministero, e però in fase di risorse ridotte, insomma, è un po' difficile riuscire ad incentivare l'occupazione femminile. Ci sono strade diverse, secondo lei, Ministro, che si possono percorrere? Guardi, purtroppo non ci sono scorciatoie facili. Il nostro governo ha subito vincoli finanziari molto forti, e io personalmente, come ministro del lavoro, mi sono trovata a dover fare una riforma sentendomi spesso e volentieri dei no sul piano della disponibilità di risorse, e quando io ho dovuto spiegare che per esempio il congedo di paternità veniva reso obbligatorio per un giorno, è chiaro, questa è una misura che può essere persino considerata ridicola, ma io dico è un segnale, d'altronde ogni giorno costa 70 milioni e quindi bisogna fare i conti con delle risorse molto scarse. Abbiamo messo risorse sui voucher, di nuovo per cercare di smuovere le acque all'interno di questo tema che è molto importante per l'occupazione femminile, che è il tema della conciliazione. Io dico è molto importante per l'occupazione femminile, ma non con ciò intendendo che soltanto le donne hanno un problema di conciliazione, anzi noi proprio il congedo di paternità è un messaggio forte nella direzione della condivisione. I figli non sono soltanto una questione delle madri, sono una questione di entrambi i genitori, quindi la conciliazione deve riguardare tutti. Però la conciliazione richiede risorse che possono venire o dallo Stato o dagli enti territoriali, ma possono anche venire dalle imprese. Ci sono imprese che fanno welfare aziendale e politiche di conciliazione, scusi un attimo, tanto... Abbiamo un attimo di problema con l'intervista al ministro. Iniziamo però appunto dalla discussione sulle quote rosa, poi magari riprenderemo la seconda parte dell'intervista dopo. Dunque, con Anna Zattoni, appunto direttore generale di Valore D, mi sembra che la vostra posizione in linea di massima, Zattoni, sia... condividete la posizione di Fornero sulle quote rosa voi? Ma in sostanza direi di sì, nel senso che leggiamo la legge sulle quote rosa come uno strumento per accelerare un processo di cambiamento, ove questo cambiamento negli anni passati non è avvenuto alla velocità giusta. La stessa Reding, nel presentare la direttiva, ha fatto un punto importante. Ci vogliono 40 anni al tasso di crescita attuale di donne nei consigli di amministrazione per riuscire ad arrivare alla parità. Quindi questo strumento può servire ad accelerare il fenomeno, e ci sono stati già alcuni segnali positivi in Italia, dove la legge Golfo Mosca è diventata operativa da agosto dell'anno scorso. Ancor prima di questa data, alcune aziende rilevanti, Fiat, Prismian, Luxottica, Impregilo, hanno già inserito delle donne nei loro consigli di amministrazione, tant'è che poi il tasso è passato in tempi rapidissimi da un 6% di donne presenti nei CDA a un 10%. Quindi effettivamente questa accelerazione c'è stata. Ci scrivono molti ascoltatori. Allora, il pessimista su 9 in punto è l'hashtag su Twitter, oppure appunto potete scrivere a me. Alcuni uomini, Andrea, Bartoli, i cambiamenti culturali non si fanno per decreto ma per educazione. Quote rosa sono un ulteriore marchio di genere e di discriminazione. Il pessimista, le quote rosa sono la versione femminile dello sbarramento maschilista. In tutto questo la meritocrazia non c'entra nulla. Giuseppe, la capacità individuale diventa una questione sessuale. Grande passo avanti, la donna come panda. E ancora, sempre appunto sulle quote rosa, ci scrive un altro ascoltatore: sono molto discriminatori, il problema è la mentalità maschilista radicata. E ancora abbiamo il nostro sondaggio, sul quale potete ancora votare fino alla fine della trasmissione, ci dice che al momento il 69%, ancora siamo ancora là, è cambiato di poco, il 69% è contrario. Insomma, è una questione di terapia shock da una parte, Zattoni, se vogliamo, e però c'è anche una riflessione da fare su questo, insomma, perché poi il mercato in qualche misura si autoregola, lo abbiamo visto anche con la politica, no? Si è tanto parlato di necessità di mettere quote rosa in Parlamento e poi ci ritroviamo improvvisamente un Parlamento dove il 30% è donna. Effettivamente è vero, se posso fare un punto rispetto a questi commenti particolarmente contrari, che sono assolutamente comprensibili. Se parlo come una donna, a me non piace essere considerata un panda e quindi avere una legge per permettermi di entrare in un consiglio, perché vale il discorso dei risultati, dell'impegno, della preparazione che diceva prima il ministro. E quindi da un punto di vista personale può non piacermi, però è il punto di partenza secondo me da tenere in considerazione. Su 5.000 aziende europee quotate, l'85% dei ruoli esecutivi sono occupati da uomini e il 91% di quelli non esecutivi, quindi potremmo quasi definire di essere in una situazione di monopolio. Allora, in molti monopoli, e in Italia ci sono stati tanti esempi, per rompere questa condizione è stata necessaria una norma. Guardiamo per esempio il settore delle telecomunicazioni ai tempi di Telecom e Omnitel, per cui in alcuni casi si rendono necessarie delle norme per cambiare le condizioni di base del mercato. Ecco, questo credo che sia una prospettiva da tenere in considerazione in questa discussione. Dall'altra parte, sul merito, allora anche questo è un altro aspetto interessante. Le donne che sono entrate nel corso dell'anno scorso nei board delle società che ho citato prima, sono donne molto preparate, quindi questa legge non ha avuto un effetto negativo, perché ci sono donne come Joyce Biggio, che è entrata nel consiglio di Fiat, Elisabetta Oliveri nell'Espresso, la Patrizia Greco in Fiat Industria, Elisabetta Magistretti in Mediobanca e Luxottica. Stiamo parlando di donne bravissime, preparatissime, quindi anche l'elemento merito è assolutamente tenuto in considerazione in queste scelte. Lucia Quaglino, collaboratrice dell'Istituto Bruno Leoni, immagino che lei non concordi per niente sulla questione quote rosa, anzi ho visto un suo pezzo sul tema proprio su Chicago Blog, sul blog. Ci spieghi un po'? Sì, no, io non... Pronto? Sì, la sentiamo perfettamente, prego. Ok. Io non concordo, perché appunto non credo comunque in ogni caso che le quote rosa possano favorire la meritocrazia. Per carità, ci sono assolutamente dei casi in cui questo accade, accade comunque, però nel momento in cui si costringe l'obbligo di rispettare una certa quota, è anche vero che ci sono dall'altra parte dei comportamenti opportunistici che ne seguono, cioè saranno scelte delle figuranti tra mogli, amiche, sorelle, piuttosto che le varie raccomandate, che alla fine potranno sedere in quei consigli di amministrazione, ma magari non hanno potere decisionale e magari neanche hanno le competenze, perché comunque ci sono molti studi che dimostrano che le donne preferiscono le facoltà dove si studiano le materie umanistiche piuttosto che quelle scientifiche ed economiche. Chi siede a un consiglio di amministrazione però banalmente deve sapere, ad esempio, leggere un bilancio; chi ha studiato lettere è logico che non sia in grado. Quindi potrebbero esserci aziende in realtà all'interno delle quali non ci sono le donne che hanno effettivamente la preparazione e la capacità per occupare certe posizioni, e così facendo questo andrà a scapito ovviamente dell'efficienza dell'azienda. Tra l'altro appunto si consideri che è vero che ad oggi la dirigente è attualmente costituita in prevalenza da uomini, ma negli ultimi 20 anni comunque il numero di donne ai vertici è raddoppiato. I dati OCSE mostrano che addirittura in Italia la proporzione di donne con responsabilità manageriali è fra le più alte, comunque superiore alla media, e questo è avvenuto spontaneamente in virtù non delle quote ma delle loro capacità e delle loro scelte, perché qui anche di scelte parliamo. Garantire dei posti nei consigli di amministrazione, cioè ai vertici, non implica che non tiene conto del fatto che alcune donne potrebbero non essere disposte a dedicare tutto questo tempo e impegno al lavoro, potrebbero preferire la famiglia. Quindi qui stiamo facendo una questione culturale. Sì, c'è una questione culturale, devo dirle che da questo lato la soluzione è molto più difficile, insomma, nel senso che magari ci sono anche degli uomini che preferirebbero starsene a casa, appunto, a curare la famiglia. 9 in punto. Sentiamo qualche ascoltatrice in questo caso. Luisa ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, intanto facevo i complimenti al signor Angelo che ieri è stata la voce di tutti gli italiani. Ha sentito, lo mettiamo come tormentone, ce lo teniamo. Faccio i complimenti assolutamente, perché è esattamente quello che noi, almeno nel mio caso, pensiamo di quello che sta succedendo in Italia, la stanno affondando in tutti i sensi. Allora, io volevo parlare, oggi è l'8 marzo, non voglio giustificare la donna, ma non vorrei neanche giustificare l'uomo, per quanto si parla della meritocrazia. La signora Fornero, se dicesse delle cose più intelligenti, magari non la prenderebbero in giro, perché comunque la donna lavora come l'uomo in Italia. Io sono 30 anni che lavoro e non mi sono mai sentita diversa dall'uomo, devo soltanto avere le mie capacità per portare avanti il mio lavoro, se sono in grado di farlo bene, se no me ne sto a casa a far la calza. Tutto qui. L'Italia non esiste comunque, né nell'ambito lavorativo. La meritocrazia, dice, mi scusi perché l'abbiamo persa, diceva la meritocrazia non esiste perché... No, non esiste né sul lavoro statale e neanche sul lavoro comunque privato. Sì. Io lavoro per un'azienda privata con gli statali, non esiste, ve lo posso garantire. Devo dire una cosa, che in realtà... Era esattamente quello che diceva il ministro, adesso non è per difenderla a tutti i costi oggi, però era esattamente quello che diceva il ministro, sostenendo la sua tesi. Sentiamo anche Domenica dalla provincia di Firenze, buongiorno. Buongiorno, più o meno penso di... volevo dire le stesse cose che stanno dicendo queste persone, cioè il merito, donne di merito sono sempre emersi, a parte Curie e tutte queste cose. Quello che fa specie è che uomini di demerito riempiono la platea. Quindi sarebbe bene che invece di fare le quote rosa per le donne di merito, per le donne, perché che sarebbe, emergerebbero in tutte le maniere, fare delle quote per abbassare gli imbecilli, gli incapaci. Non lo so, non è facile, però potrebbe essere un'idea, no? Le quote anti-imbecilli, però questa si dovrebbe chiamare appunto meritocrazia. Sentiamo anche Giovanni che ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno, guardi, l'intervento l'ho chiamato prima ancora di sentire l'intervento del ministro Fornero, sono assolutamente d'accordo, per me la quota rosa è sempre una toppa, ma non risolve il problema del buco, che è sostanzialmente la mancanza cronica di meritocrazia che c'è in alcune istituzioni più che in altre, ma sicuramente in tutta Italia. E poi penso che per il problema della minor presenza delle donne nella forza lavoro, un enorme aspetto che mi sembra strano nessuno di voi abbia toccato è la carenza o la mancanza di tutela per tirare sui bimbi in Italia, cioè abbiamo un tasso di natalità più basso sicuramente nei paesi sviluppati. Uno di questi motivi sicuramente sarà stata anche la crisi economica, ma anche la difficoltà, la presenza di figli nido. C'è una carenza di servizi, Giovanni ha perfettamente ragione, c'è una carenza di servizi pazzesca in questo paese da quel lato, sicuramente. Il mondo del lavoro, questo spinge le donne, per le donne magari diventano loro parte che si fa più carico della famiglia, non sto dicendo che sia giusto, sto semplicemente dicendo che sicuramente non aiuta, e non aiuta poi la mancanza di meritocrazia ovviamente. Anna Zattoni, da quel che ho capito però la vostra idea è di quote rosa come provvedimento temporaneo, in realtà qualcosa che metti intanto, come diceva Giovanni, no? Ci metti una toppa intanto, poi insomma il paese si sviluppa e poi a un certo punto le togli queste quote rosa. Di fatto oggi in Italia è già così, la norma, quella che chiamiamo la legge Golfo Mosca, è una norma transitoria, quindi vale per 3 rinnovi dei consigli di amministrazione, perché ci si aspetta che dopo aver inserito fino al 30% di donne questo processo in qualche modo vada avanti da solo e non abbia più bisogno di una norma a supporto, e questo credo sia assolutamente importante come elemento, quindi l'osservazione Zattoni, l'osservazione che faceva Quaglino, dice il rischio è che ci si mettano dentro mogli, cugine, figlie, sorelle, perché è una forzatura. C'è, secondo lei? Il rischio di fatta la legge si trova l'inganno c'è sempre, potrebbero ridurre anche la durata dei mandati, visto che si parla di rinnovi e di mandati. Però quello che credo è che le donne che sono entrate oggi sono assolutamente donne meritevoli e le aziende che le hanno scelte hanno tracciato una strada. Quindi sarà molto difficile per altre aziende di pari livello attuare delle scorciatoie. E tra l'altro la nostra esperienza è che di donne brave ce ne sono e anche tante. Noi abbiamo un'iniziativa come Valore D insieme al General Electric Capital che si chiama In the Boardroom, dove formiamo le donne per i consigli di amministrazione e abbiamo delle classi di donne che sono preparatissime. Oltretutto, secondo me, adesso è anche cambiato l'approccio della donna, che è sempre stato un po' di non proporsi per dei ruoli importanti, di tirarsi indietro, perché sono tante le responsabilità che si hanno a casa e sul lavoro, mentre oggi abbiamo visto che c'è stato un cambiamento anche in questo, quindi riusciamo ad avere visibilità di tante donne brave che possono entrare nei consigli. Quaglino, perché poi alla fine è vero sorelle, mogli, cugine, però è vero anche no, c'è caduta Lucia Quaglino, insomma il ragionamento che si voleva fare è che alla fine se uno vuole metterci i parenti nel consiglio di amministrazione ce li mette che siano maschi o che siano femmine, no Zattoni? Certo, sì, questo è sempre possibile, però ripeto, ci sono esempi molto positivi, quindi dovranno le aziende che vorranno fare questo tipo di scelte si dovranno confrontare con quelle che non le hanno fatte, secondo me sarà difficile. Ci scrivete, allora leggiamo ancora qualche messaggio su Twitter, nel frattempo vi ricordo che tra 20 minuti alla fine della trasmissione si chiudono le votazioni sul nostro sito www.radio24.it, potete votare contro o a favore delle quote rosa, vediamo come siamo messi adesso, ci stiamo andando sui risultati, al momento ancora stragrande maggioranza, anzi in crescita, contro le quote rosa al 70% contro un 30% favorevole. Detto ciò, naturalmente la legge c'è già e quindi le quote rosa ce le abbiamo. È vero che questa dovrebbe diventare una norma europea alla quale, a quanto pare, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha intenzione di apporre una sorta di veto, creare un blocco per cercare di non farla passare. A proposito della preparazione delle donne nei consigli di amministrazione, ci scrive Luca, sempre su Twitter, vi ricordo, l'hashtag è 9 in punto, se volete scrivete direttamente a me, Simone Spezia. Non si può fare un discorso medio, dice Luca, nei consigli di amministrazione ci andranno donne competenti e con la giusta preparazione. E ci scrive ancora Luca a proposito della questione della preparazione delle donne, di quello che scelgono per l'università. Le donne, molto sgradevole e pregiudiziale, le donne preferiscono le materie umanistiche, quindi non mettiamole nei consigli di amministrazione. Abbiamo recuperato Lucia Quaglino? Sì, l'abbiamo recuperata. Rispondiamo a Luca. Se devo essermi spiegata male, io intendevo semplicemente dire che le ricerche mostrano che tendenzialmente le donne scelgono quel tipo lì di studi, e io ho semplicemente detto che se una donna ha studiato lettere e non ha mai visto un bilancio, magari è più difficile che sia poi in grado di prendere certe decisioni a quei livelli. Però si diceva, mentre era caduta la linea, però si diceva Lucia Quaglino, mentre era caduta la linea, la questione dei parenti, sì. Insomma, alla fine uno nel CDA ci può mettere anche non solo la sorella o la moglie, ma anche certo. il fratello o il marito, insomma, quindi il problema c'è da tutte e due le parti. È una questione, forse come diceva Fornero, è una questione di meritocrazia generale che è il vero problema del paese. Ma poi il punto qui è che appunto si rischia questo perché si vuole garantire un certo risultato, cioè si vuole assicurare che ci siano dei posti, che siano garantiti dei posti nei consigli di amministrazione. Il rischio sia per gli uomini che per le donne che si riduce se si agisce a monte, cioè vanno ridotti tutti quegli ostacoli e quelle barriere che non consentono a chi lo merita, a chi ha le capacità e a chi lo vuole di fare carriera. Quindi più che altro bisogna cercare quegli strumenti che vadano a garantire l'opportunità di potersi scegliere di guadagnarsi un posto, quindi appunto si pensi a tutte quelle misure che incentivano la creazione di asili nido aziendali. Il punto è che bisogna cercare di agire alla radice più che garantire a priori un certo risultato, anche perché poi a quel punto, per esempio, prima si diceva le quote rosa sono comunque temporanee, però in un secondo momento, anche quando saranno tolte, la donna che ho quella posizione sarà sempre considerata, si considererà che lei avrà l'agente di spedizione in virtù del fatto che il posto le era garantito, anche se in realtà magari ci sarebbe arrivata lo stesso perché era più brava. E da questo punto di vista a me sembra che facciamo proprio un passo indietro. 9 in punto. Non male, la battuta che ci arriva su Twitter di Renato Cifarelli, Recifar su Twitter, vero che la meritocrazia spesso non c'è, ma il 90% delle persone sopravvalutano il proprio merito. Non male. Siamo quasi in chiusura, in realtà non proprio in chiusura, e però abbiamo ancora ad ascoltare una parte dell'intervista che abbiamo realizzato con Elsa Fornero, nella quale, come si diceva, si toccano di nuovo i temi dell'occupazione femminile e poi anche dell'atteggiamento che, secondo il ministro Fornero, c'è stato nei suoi confronti da parte soprattutto di alcuni giornali, anche perché donna, e visto che l'8 marzo questa cosa, ce la ascoltiamo. Queste politiche si possono fare, bisogna che smuovano anche un pochino quelli che sono i pregiudizi molto radicati che noi abbiamo. Ovviamente i dati che lei citava prima sono dati drammatici. Io sono convinta che noi abbiamo lavorato per migliorare la qualità delle relazioni di lavoro. Una questione che colpisce soprattutto le donne, perché noi parliamo di scarsa occupazione, ma poi dietro c'è un mondo di precariato che è un mondo molto preoccupante ed è un mondo anche di bassa produttività, quindi sto citando un dato che dovrebbe far riflettere le imprese, perché l'uso distorto della flessibilità non favorisce la competitività delle imprese e la produttività dei lavoratori, e questo riguarda in larga misura le donne. Poi c'è un fortissimo divario tra il nord e il sud del paese, anche accentuato dal fatto che complici certe tradizioni cosiddette culturali, il sud del paese, almeno in certe aree, presenta una carenza di servizi drammatica, e quindi quando il lavoro di cura relativo ai bambini o ai genitori anziani o a persone che necessitano di cura comunque costante grava tutto sulle donne, è difficile poi chiedere a queste donne anche di partecipare al mercato del lavoro. Quindi ci sono molte cose da fare, cose che riguardano comportamenti radicati che vanno invece cambiati, e c'è nel breve periodo una drammatica scarsità di risorse. Io dico spesso che se noi avessimo avuto anche solo 5-6 miliardi da mettere nella riduzione del cuneo fiscale invece dei 900 milioni di cui abbiamo avuto la disponibilità, quelle norme insieme a questa boccata di ossigeno molto importante avrebbe sicuramente anche favorito l'occupazione in un momento drammatico. E probabilmente anche migliorato la valutazione che adesso tutti stanno dando del governo, no, Ministro? Guardi, quello, i miei colleghi all'estero mi dicono sempre, guarda Elsa, che questa è una questione di tempo, quindi poi capiranno e poi allora ti apprezzeranno. Non è che sia una grande consolazione questa, io capisco l'impazienza delle persone, capisco che quando le persone soffrono vogliono avere soluzioni immediate, non soluzioni che dicono guarda adesso soffri ma poi domani starai bene, quindi tutte queste cose le capisco, come ho detto altre volte, però c'è anche qualcuno che alimenta veramente il malanimo e questo e anche le divisioni e questo io credo che sia profondamente contrario al tipo di comportamento di cui questo paese ha bisogno, che è un comportamento che favorisce la crescita economica, ma anche la crescita civile e morale. Si riferisce a Berlusconi, Ministro? Non in particolare, magari a certi suoi giornali. Un paio di domande più con le quali chiudiamo. Però i giornali cattivi stanno a 360 gradi. Ministro, visto che l'8 marzo è accennato lei alle questioni culturali e di discriminazione, visto che stiamo parlando del governo del quale ha fatto parte fino adesso, ha l'impressione che il fatto di essere donna abbia inciso su come è stata trattata, su come sono state prese anche le sue riforme? Su questo dico un sì deciso. E sa perché? Perché in quelli che praticano il malanimo spesso c'è anche molta vigliaccheria e la vigliaccheria è l'atteggiamento tipico di chi se la prende di più con quelli diciamo anche solo considerati più deboli, non è detto che lo siano necessariamente. E io lo dico con molta pacatezza, lo dico senza rimostranze, ma lo dico anche perché siccome come ministro delle pari opportunità mi sono molto occupata della violenza nei confronti delle donne, la violenza nei confronti delle donne non è soltanto il femminicidio, e noi abbiamo avuto 124 donne ammazzate lo scorso anno, nel 2012. Ma la violenza nei confronti delle donne è psicologica, la violenza nei confronti delle donne è il mobbing, la violenza nei confronti delle donne è trattarle diversamente, semplicemente anche quando si dice una donna che è in una certa posizione lo è perché ha fatto dei favori a qualche uomo. Queste sono forme di violenza, anche il linguaggio sessista che viene usato ancora in questo paese è qualche cosa di offensivo e quindi non ho nessun dubbio. Io ero in questi giorni alle Nazioni Unite, c'era la sessione sullo stato delle donne nel mondo, mi hanno detto tutti che è stata forse la sessione più frequentata, dove c'erano migliaia e migliaia di donne, delegazioni provenienti da tutto il mondo. E lì c'era una unità di intenti. Guardi, io ho avuto incontri bilaterali con molte delegazioni, persino con una delegazione iraniana. E il tema di tutti è, le donne meritano maggiore rispetto. Mi scusi e faccio una sintesi giornalistica brutale. Quindi, Libero e Il Giornale sono stati dei giornali che hanno avuto malanimo nei suoi confronti e anche con dei toni perché sessisti. Il Fatto Quotidiano no? Anche Il Fatto Quotidiano, quindi con dei toni sessisti, dice lei. Sì. E così chiudiamo adesso questa puntata di 9 in punto. Un ringraziamento a Carmelo Lauricella in regia, Franco Piantanini in assistenza, Laura Faggin in redazione. L'aggiornamento sul nostro sondaggio che si sta chiudendo in questi minuti: più donne nei CDA, le quote rosa sono necessarie o discriminatorie? I contrari sono al 68,9%, i favorevoli al 31,02%. Avete ancora un minuto per votare, poi chiudiamo tutto. Come si diceva, i ringraziamenti già fatti, un ringraziamento anche a Rosa, Eleonora e Sabrina al centralino. Grazie a Lucia Quaglino e Anna Zattoni per essere state con noi, per la pazienza tra qualche problema tecnico che c'è stato oggi. Ci risentiamo domani, per chi vuole, con Voto Antonio, oppure lunedì dopo il GR delle 9. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. 9 in punto.